Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Beatrice Moia di Wanted Cinema per presentare il documentario Martin Luther King vs. FBI di Samuel Pollard al cinema dal 14 al 16 febbraio 2022. Ben trovata! Grazie Federico, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Un bel lavoro, raccontiamolo! Sì, un film importante, un film impegnativo, ma soprattutto visto che ci troviamo all'interno del Black History Month, che è celebrato soprattutto negli Stati Uniti nel mese di febbraio, è importante riflettere su queste tematiche, sulla tematica della segregazione delle persone nere negli Stati Uniti e di tutte le lotte, di tutte le battaglie che ci sono state per ottenere pari diritti. E quindi ecco un documentario su Martin Luther King e in particolar modo su tutto il tremendo lavoro che è stato fatto dall'FBI per diffamare Martin Luther King e cercare di screditarlo in quegli anni, soprattutto in cui stava prendendo sempre più potere, sempre più seguito e rischiava di minacciare un po' nella visione degli Stati Uniti di quei tempi, ma purtroppo ancora molto attuale, di discreditare la potenza e la supremazia dell'uomo bianco. In quello che è stato uno dei tanti dossieraggi, uno degli elementi interessanti del film è che mostra come una parte dell'FBI era dedito alle regole, un'altra parte si sentiva superiore e onnipotente. Sì, esattamente, quella parte che ha fatto di tutto per cercare di mettere i bastoni tra le ruote a Martin Luther King con ogni mezzo. Nel documentario vediamo ogni tipo di strategia, come utilizzare cimici nelle stanze d'albergo che Martin Luther King frequentava, oppure intercettazioni telefoniche, oppure pedinamenti da parte di investigatori privati, addirittura giornalisti che venivano corrotti perché scrivessero cose contro per screditare Martin Luther King. Quindi tutta una ricerca per screditare un uomo che agli occhi dei più in quel momento rappresentava la libertà e la speranza per uguaglianza di diritti per tutti. Che poi una parte della società fosse più avanzata di chi la rappresentava lo dimostra il fatto che l'FBI dava queste informazioni di continuo alla stampa ma nessuno pubblicava. Esatto, esattamente. Nessuno pubblicava se non chi purtroppo era corrotto e veniva anche profumatamente pagato per ridicolizzare quest'uomo. E tra l'altro attaccandosi all'unico elemento a cui si potevano attaccare, questa sua apparente infedeltà nei confronti della moglie che poteva risultare gravissima soprattutto in quegli anni agli occhi di chi credeva nel modello di famiglia tradizionale, quindi madre, padre, figli. Questo era l'elemento a cui si attaccava, quindi c'è anche tutta questa questione nel documentario di ma allora cosa dobbiamo dar valore all'uomo pubblico o all'uomo privato e con anche le sue debolezze, quali sono gli elementi a cui dobbiamo fare appello per dar credito a un uomo che è diventato comunque una leggenda, al monumento, alla persona monumento oppure all'uomo in carne ed ossa che sta dietro a quello che è stato costruito negli anni. Questa è anche un po' la dinamica che viene presentata nel film e che viene anche in qualche modo riflessa nel futuro, perché tanti dei documenti sono stati resi accessibili dal Freedom of Information Act, però verranno resi pubblici solo nel 2027 e quindi lì ne usciranno di cotte e di crude e ci si domanda ma quando arriveremo a quell'anno cosa resterà di Martin Luther King? Sarà ancora il mito, la leggenda oppure emergeranno anche dei suoi lati così tanto umani da diciamo indebolire quello che ha fatto, per quello per cui ha lottato? Un altro aspetto molto interessante è che quando lui prese posizione contro la guerra in Vietnam dopo un anno e mezzo di silenzi, si mise contro anche non solo la presidenza Johnson, che fino a quel momento era dalla sua parte, ma anche parte dei democratici, il che fa pensare che comunque la società americana, che per la maggior parte non sapeva neanche dove fosse il Vietnam, però era innervata fortemente da quello spirito di violenza e mito della frontiera che proseguono ancora oggi. Certo, assolutamente. Poi appunto la guerra del Vietnam si è iniziata a rendersi conto quando non tornavano più i figli, i ragazzi, e quindi c'è stato tutto un movimento di rivolta, di non violenza, che anche grazie a figure come Martin Luther King, sulla scia del grande Gandhi, è diventato un po' uno stile di vita, di pensiero, che ahimè ha inciso fino a un certo punto poi nella nostra contemporaneità. Ricordiamo anche, Beatrice, che in proporzione i soldati americani che combattevano in Vietnam per la maggior parte erano afroamericani. Certo, certo, assolutamente. In proporzione. Di Sam Pollard cos'altro sappiamo? È un regista sicuramente che prima di MLK usò il titolo originale, noi in italiano l'abbiamo chiamato Martin Luther King per intero, verso FBI. Sicuramente prima di questo documentario ha avuto modo di farsi conoscere e anche direi alla grande, perché ha già vinto un Emmy Awards con un altro film sull'elezione di Barack Obama ed è stato nominato agli Oscar con Four Little Girls, un film di cui lui è stato produttore e collaboratore del regista, il grande Spike Lee, che è la figura che un po' l'ha reso noto a livello internazionale. Quindi un regista molto dedicato comunque alla tematica della storia dei neri negli Stati Uniti e che ha avuto questo sodalizio fortunato con Spike Lee per emergere. Che distribuzione sarà? Prima, quando ci siamo sentiti prima della diretta con Federico, scherzavamo sul fatto che la distribuzione coincide con il giorno di San Valentino e i due giorni successivi, quindi un'uscita evento di 3 giorni, 14, 15, 16 febbraio, con la speranza poi ovviamente di riproporre il film anche nei giorni successivi o comunque più avanti, visto che il tema che affronta è un evergreen che in occasioni speciali può essere assolutamente ripresentato. Abbiamo un buon numero di sale in tutta Italia, come sempre potete trovare il calendario delle sale che lo programmano sul nostro sito wantedcinema.eu alla pagina dedicata al film. Abbiamo il patrocinio di Amnesty International Italia, ci sarà anche qualche presentazione in sala in alcune città con dei portavoce di Amnesty, ne dico una tra tutte a Roma con addirittura il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Nuri, che sarà al cinema Farnese Art House a presentare il film. Abbiamo una collaborazione con l'ARCI. Per tutti i tesserati ARCI ci sarà modo di accedere alle proiezioni con un biglietto ridotto e speriamo vivamente che tante persone possano scegliere a San Valentino di riflettere su questa tematica così importante. Il documentario Martin Luther King vs. FBI di Sam Pollard al cinema dal 14 al 16 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie a te, buona visione. Con Stefano Finesi di Teodora Film che distribuisce After Love di Alem Khan al cinema da giovedì 10 febbraio 2022. Ben trovato! Ciao Federico, ciao a tutti! Raccontiamolo! È praticamente il film d'esordio di questo giovane regista anglo-pakistano, Alim Khan, quindi è inglese ma da una famiglia pakistana. È un film, io lo considero quasi un piccolo miracolo, perché per essere un'opera prima c'ha una grazia di scrittura, di regia, veramente sorprendente, anche una mano sicura direi, insomma, in tutta la gestione del film che lascia a bocca aperta. La storia è quella di una donna felicemente sposata, che per lui si è convertita all'islam inglese. All'improvviso resta vedova e a quel punto, disperata, cercando nelle cose del marito, scopre una cosa incredibile, ossia che il marito, che lavorava sul traghetto che va da Dover a Calais, aveva in realtà una seconda vita in Francia, dove aveva anche un'altra donna Ovviamente lei non sapeva nulla. A quel punto lei, scioccata, attraversa anche lei la Manica per andare a conoscere questa persona. Quando arriva, quest'altra donna francese, vedendola con il velo, e la scambia per la donna delle pulizie che aveva chiamato perché deve traslocare. E quindi la fa entrare e la fa mettere subito al lavoro. Lei è un po' imbarazzata, ma sta al gioco perché vuole conoscere com'è la vita di questa persona che era appunto la seconda donna di suo marito. E da qui poi succederanno una serie di equivoci, insomma un percorso drammatico fino al gran finale che è davvero molto commovente. Però ecco, un film che veramente riesce a catturare veramente i moti più segreti dell'animo, ecco, è veramente una sensibilità fuori dal comune. Come l'avete scoperto? L'abbiamo scoperto poco prima che andasse al Festival di Roma, ma oltre a quello ha fatto tanti altri festival, ha fatto il London Film Festival, ha fatto Toronto, poi ha vinto recentemente 6 premi ai British Independent Film Awards e adesso ha avuto 4 candidature al BAFTA, i BAFTA sono un po' gli Oscar inglesi. Insomma, per essere un film d'esordio è comunque un traguardo notevole, perché insomma gli altri film candidati ai BAFTA sono, non so, Dune o Il potere del cane o Belfast di Kenneth Branagh, quindi avere anche il film di un esordiente, insomma, è una cosa veramente sensazionale. Probabilmente non vincerai BAFTA, però è una cosa che un po' ti dà la misura di quanto sia impressionante questo esordio, ecco. In quali paesi è stato distribuito? Beh, credo in Europa è stato distribuito quasi ovunque, anche se è uno di quei film che purtroppo ha sofferto un po' per la questione del Covid, inevitabilmente, come tanti altri film. Noi stessi avremmo voluto farlo uscire prima, peraltro. Però ecco, è un periodo, come sai, che con i tempi della distribuzione è tutto un po' complicato, ecco. Però ecco, questo è un film interessante, ti ripeto, anche perché ti dà uno sguardo un po' diverso anche nella rappresentazione dell'Islam, che spesso da lui in Occidente è sempre legata alle questioni del fondamentalismo, a delle realtà molto drammatiche. Invece qui in qualche modo è riportata una dimensione di quotidianità, per cui c'è un dramma forte, però si vede che è comunque in una, ti ripeto, in una prospettiva quotidiana. Quindi in quel senso, insomma, penso sia abbastanza interessante. Anche con una bella prova di attrici. Sì, la protagonista Joanna Scanlan è veramente incredibile. Lei in Italia non è molto conosciuta e per assurdo in Inghilterra è un'attrice che fa spesso anche ruoli comici, insomma, e molto popolare in diverse serie televisive inglesi. Al cinema ha lavorato molto, però spesso come caratterista o con ruoli minori. Invece qui è protagonista assoluta e ha avuto un successo personale con questo film veramente clamoroso, e lei infatti è bravissima. Poi c'è da dire che con i film inglesi sulla parte del cast e degli attori uno va quasi sul sicuro. Lì c'è una tradizione, c'è sempre quel background teatrale di spessore, per cui hai sempre degli interpreti veramente eccezionali. In quante sale? Quello ancora non sappiamo con esattezza, però credo che saremo insomma intorno alle 40 sale, che non sono poche per un film che comunque, ti ripeto, è un'opera prima, è un piccolo film, ma che veramente invito tutti ad andare a vedere perché potrebbe essere veramente una bella sorpresa, ecco. Il film After Love di Alem Khan al cinema da giovedì 10 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi di Teodora Film che lo distribuisce. A presto. Grazie, grazie Federico, grazie a tutti. Con Laura Samani, regista del film Piccolo Corpo, al cinema da giovedì 10 febbraio 2022. Ben trovata! Ciao, grazie di avermi ospitata. Come ce lo presenti? Il film è una favola cruda, ambientata ai primi del Novecento, ed è la storia di un lungo viaggio con la speranza di ottenere un miracolo. Come nasce l'idea? L'idea è nata nel 2016 quando un signore della mia regione, del Friuli Venezia Giulia, mi ha raccontato per la prima volta dell'esistenza di questi santuari molto particolari, che si chiamano santuari del respiro appunto, che erano dei luoghi in cui si portavano i bambini che erano nati appunto senza respiro, perché si diceva che si potessero riportare in vita per poterli battezzare e strappare quindi le loro anime al limbo. E da lì ho iniziato a indagare, a informarmi meglio, e ho scoperto che ce n'erano centinaia di santuari di questo tipo in tutto l'arco alpino. Solamente nella mia regione ce n'erano ben tre. Uno è tuttora esistente, si chiama Trava, anche se ha perso la funzione originale perché il limbo non esiste più dal 2007. Come hai pensato la storia da raccontare? Una delle cose che sono emerse per prime nei documenti è il fatto che erano gli uomini a fare il viaggio, solitamente erano i padri di questi bambini o erano i padri delle madri di questi bambini a fare il viaggio, cosa che insomma ha una sua logica data dal fatto che le puerpere erano allettate. E invece a me, probabilmente perché interessano più le zone grigie della storia ufficiale, a me è interessato da subito capire cosa sarebbe successo se fosse stata una madre a fare questo viaggio. Quindi ho coinvolto Elisa Dondi e Marco Borromei, con cui avevo già scritto il lavoro precedente La Santa che dorme, che è un cortometraggio, e da lì ci siamo messi a immaginare, l'abbiamo scritto a sei mani. Per quanto riguarda invece la scelta dei volti del cast? Il casting è stato principalmente street casting, cioè mentre cercavo le location incontravo le persone che sarebbero diventate ora comparse, ora ruoli secondari, ma anche nel caso di Celeste Cescuzzi, la protagonista, parliamo di un esordio anche per lei, perché mi interessava lavorare con il dialetto. E i luoghi, anche per questi c'è stata una ricerca? Sì, la ricerca dei luoghi è durata almeno un anno e mezzo. Come dicevo, è strettamente interconnessa come ricerca a quella delle persone, perché tante volte è capitato di, che ne so, entrare in un bar di un piccolo paese della regione alle 11 del mattino e trovare anziani che battono briscola e bevono, fermarmi con loro a bere più che a battere briscola perché non sono brava a giocarci e scambiare informazioni. E tante volte è capitato che queste persone si siano offerte di accompagnarmi a vedere ora un torrente, ora una cavità nella montagna, e che poi siano diventate appunto interpreti del film. In che modo questa storia parla al presente? Ma io spero che parli anche al futuro in qualche maniera, nel senso che è nata come storia con l'ambizione di essere universale, è appunto eterna, mi viene da dirti, perché per quanto sia ambientata ai primi del Novecento con una credenza che si è un po' andata a perdere, come dicevo prima non esiste nemmeno più il limbo per chi è cattolico, questa struttura così rigida, no, nel disegnare l'aldilà non esiste più, comunque si parla di perdita, si parla di fiducia, di chi ci si può fidare, quali sono i giusti compagni di viaggio, e soprattutto si parla di identità. Quindi io spero che siano tematiche appunto che non hanno una data di scadenza e non hanno un confine geografico. E con che occhio vedi la tradizione, quella che ti ha colpito e ti ha portato a realizzare questo lavoro? La questione del battesimo è una metafora all'interno del film e si ricollega a quello che dicevo prima del fatto di ambire ad una universalità della narrazione, nel senso che in tutte le culture si dà un nome ai bambini, così come in tutte le culture si dà un nome alle cose. Quindi il modo in cui io vivo la faccenda è che c'è una domanda che abita il mio cervello e che ho condiviso con le persone in questi anni, e che ho condiviso nel film, ed è: chi siamo se nessuno ci guarda? Chi siamo se nessuno ci chiama, soprattutto? Che tipo di distribuzione avete scelto? E poi chiaramente in quante sale sarà? Ah, il numero di sale non lo so, per fortuna, perché spero che sia in crescita progressiva questo numero. E abbiamo optato per una autodistribuzione, il che significa che Nefertiti Film, che è la casa di produzione italiana, nonché maggioritaria sul progetto, perché è un film che è coprodotto anche con la Francia e la Slovenia, Nefertiti Film lo autodistribuisce. E questa è una scelta di cui sono orgogliosissima, per quanto sappia che sia complesso, e di conseguenza è una dinamica in cui abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, del passaparola e soprattutto della speranza che le persone abbiano voglia e possibilità di andare in sala, visto il momento. Proprio per questo, per saperne di più, c'è un sito internet o pagine social? Sì, ci sono pagine socialissime. Io consiglio di seguire appunto quella di Nefertiti Film, della casa di produzione, sia su Facebook che su Instagram. E c'è anche una pagina del film che si chiama, è la versione inglese, quella internazionale, quindi è Small Body. E poi ci auguriamo, insomma, che i migliori quotidiani locali ci diano manforte. Il film Piccolo Corpo al cinema da giovedì 10 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Laura Samani. A presto! Grazie, a presto, grazie mille. Con il regista Giovanni Cioni per presentare il suo film Dal pianeta degli umani al cinema da sabato 12 febbraio 2022. Ben trovato! Ben trovato, grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Come lo presenteresti questo lavoro? Quando preparavo questo lavoro dicevo che volevo fare un film fantastico e in fin dei conti era forse un po' una battuta che ha del reale. Dicevo che facevo un film fantastico che si chiamava Dal pianeta degli umani, che era raccontato da un coro di rane. E poi andando al di là della battuta c'è tutta una storia, no? Non è che poi riesci a fare un film dicendo semplicemente che fai un film fantastico. Però questa era la cosa che dicevo e che poi per me si è abbastanza realizzata. Com'era nato il progetto? È nato da un sopralluogo al confine di Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia, il confine che è stato reso noto dalla vicenda dei profughi che rimanevano bloccati, che venivano rimandati in Italia, che cercavano di passare attraverso la montagna, attraverso le gallerie ferroviarie. Lo dico al passato perché questa storia si svolge tuttora. Il film è partito proprio da questo, dal fatto che tutto succede come se non dovesse esistere, come se non ci fosse, come se una realtà venisse negata. E feci questo sopralluogo, il viaggio è cominciato da questo sopralluogo, un sopralluogo nel silenzio appunto, perché non succede niente in apparenza, nel senso in cui i treni vengono fermati ogni volta, vengono fatti scendere tutti i sospetti migranti, vengono rinchiusi la notte in container alla dogana, però siamo in un contesto vacanziero con persone che fanno il jogging davanti a questi container nei quali sono rinchiusi i migranti e che non li vedono, e tutto si svolge così come in una eterna primavera di vacanza, no? E l'idea del film poi è nata da un cortocircuito tra questa realtà negata nel silenzio e una storia che si svolge lì, proprio su questo confine. La storia è di uno scienziato che negli anni 1920 aveva sperimentato una cura di ringiovanimento tramite trapianto di testicoli di scimmia sull'uomo. E quando dico che stava proprio lì è perché sopra la frontiera, proprio sul sentiero della morte, da dove si passa per passare dalla montagna per passare in Francia, questo dottor Vonov aveva la sua villa, nella villa allevava le scimmie che servivano come pezzi di ricambio, no? Per le operazioni. E improvvisamente questo personaggio mi sembrava, dicevo no, quando mi hanno raccontato di questa storia, quando mi hanno mostrato le gabbie di scimmia, mi sono detto non è vero, questo è un film, cioè è un film come quando si dice è qualcosa che non è mai esistito, no? E è probabilmente questo che ha fatto cortocircuito, perché improvvisamente avevo tutto un immaginario, ripensavo a tutti questi film come L'isola del dottor Moreau, il King Kong, il primo King Kong, ed era lì, la scena del film era quella praticamente, e ho cominciato a immaginare di raccontare il presente attraverso il prisma di un film fantastico degli anni 30, degli anni 20, come se la realtà che viviamo oggi fosse una fiaba fantastica, ma reale. Come hai deciso di articolarlo? È un lungo percorso. Diciamo che per me il film rivive l'esperienza della sua scoperta, insomma, dello sviluppo della sua idea. Dunque sono partito dal sopralluogo e poi via via si sono inseriti vari elementi del cinema fantastico degli anni 20, immagini d'archivio dell'epoca, gli archivi su Voronov, e poi sono arrivate le rane. Stando lì ho cominciato a registrare i canti di rane nelle cisterne d'acqua che stanno sulle scogliere, no? E poi precisamente mi sono detto, ma le rane stanno lì ora, sono invisibili, le senti? come se fossero dappertutto, e c'erano all'epoca di Vorona e ci sono sempre state, e dunque è da lì che è nata l'idea di farne come un corpo che racconta questa storia, che dunque racconta la storia del pianeta degli umani, da qui il titolo. Per quale tipo di distribuzione hai optato? Innanzitutto con persone che ci credevano al film, specialmente in questo periodo in cui non è facile portare i film al cinema, e dunque con Letizia Gatti e la Reading Bloom, che hanno organizzato un tour di presentazioni del film attraverso varie città d'Italia. Cominceremo il 12 dal paese dove vivo, Barberino di Mugello, nei pressi di Firenze, poi dopo andrà a Firenze, Prato, Pisa, Roma, Torino, Milano, insomma sarà l'occasione di un viaggio attraverso l'Italia. A questo proposito, proprio per saperne di più sulle date e sui luoghi, c'è un sito internet o pagine social di riferimento? C'è la pagina su Facebook del film, Dal pianeta degli umani, quella è la più aggiornata. C'è il sito mio, giovannicioni.org, ma quella più aggiornata è quella Dal pianeta degli umani, dove via via metteremo le date, pubblicheremo il calendario del tour. Il film Dal pianeta degli umani al cinema da sabato 12 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Cioni. A presto. Vi ringrazio. A presto. Con Cristina D'Eredità, Maria Arena e Benedetta Argentieri, per parlare dei loro documentari Tutti a casa, Il terribile inganno e I am the revolution, nella rassegna Resistenze, con la R tra parentesi, Donne che cambiano il mondo, in 6 città dal 15 febbraio al 24 marzo 2022. Bentrovate. Grazie, bentrovati a voi. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Cristina, ci parli del documentario Tutte a casa, ce lo presenti? È un documentario collettivo che è nato proprio all'indomani del primo lockdown, quindi quello che sostanzialmente ha fermato prima l'Italia e poi tutto il mondo nella primavera del 2020. È stato creato in maniera chiaramente distanziata, tutta da remoto, perché fondamentalmente è nata da una call che è stata lanciata sul web per cercare di raccontare la pandemia dal punto di vista delle donne. Quello che poi è accaduto è stato un qualcosa di assolutamente straordinario, dato che siamo riuscite a creare una rete di donne interessate a costruire con noi, e quando dico noi intendo il collettivo Tutti a casa, perché poi abbiamo creato anche un collettivo di donne che ha lavorato e continua a lavorare attivamente su questo progetto da anni, ma dicevo siamo riuscite a coinvolgere quasi 500 donne da tutta Italia che hanno deciso di raccontarsi e raccontare quello che stavano vivendo, avviando con noi un dialogo quotidiano di costruzione narrativa della loro storia e anche di restituzione attraverso la registrazione di videodiari che ci inviavano a cadenza più o meno settimanale, quindi un racconto continuativo e anche abbastanza strutturato della pandemia. Abbiamo ricevuto tantissimo materiale, più di 8.000 video, e quindi noi proprio quando l'Italia stava ripartendo, quindi alla fine del lockdown, ormai era arrivata la fine della primavera, quasi l'estate, ci siamo ritrovati con questo archivio, questo patrimonio appunto immenso di video, e finalmente vedevamo il nostro sogno sempre più vicino, cioè la possibilità concreta di realizzare un documentario di tipo narrativo attraverso un lavoro di montaggio molto definito, scrupoloso, scritto. Abbiamo quindi condotto una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Ci eravamo poste come obiettivo quello dei 15.000 euro che sarebbero stati utili proprio per la post-produzione del film. Li abbiamo raggiunti, anzi siamo andate anche oltre questo target che ci eravamo poste. Abbiamo iniziato a lavorare sul film, lo abbiamo montato e abbiamo avuto anche la fortuna di riuscire a vederlo in onda l'8 marzo del 2021 sulla 7 in prima serata. E poi sostanzialmente la storia di questo film sta continuando, quindi sarà nelle sale italiane e siamo assolutamente contente e soddisfatte di questo risultato e di poter finalmente incontrare le persone che hanno partecipato a questo progetto sul territorio. Che panorama viene fuori? Il film racconta un momento molto definito della pandemia. Sono cambiati molto gli umori rispetto a quel primo lockdown. Si vede proprio che la narrazione è organizzata ad onda. È come se fosse un'onda di un mare proprio a livello narrativo, perché un po' era quello. Le emozioni che abbiamo vissuto tutti noi durante quella prima chiusura è stato proprio un'onda di emozioni, sentimenti, voler agire, cercare la maniera di agire sul quotidiano, ma anche forti frustrazioni perché insomma ci si trovava lontani, ci si trovava molto spesso impossibilitati anche a dedicarsi a quello che noi facevamo, no? Il nostro lavoro, le relazioni stavano cambiando, quindi anche questa convivenza stretta, nuova, prolungata con i familiari, con la gestione dei bambini, che comunque è stato un qualcosa di molto complicato da parte delle mamme, da parte delle famiglie. Quindi quello che viene fuori nel film è uno spaccato molto emozionale di quel momento storico, perché ora magari non abbiamo ancora quel distanziamento critico da ciò che è accaduto, però veramente è stato un momento storico che il nostro paese ha vissuto e quello che ne viene fuori è un racconto molto intimo di questi sentimenti altanelanti che hanno caratterizzato il primo lockdown. Maria, come presenteresti il terribile inganno? Visto che è stato girato tra l'8 marzo del 2017 e l'8 marzo del 2020, direi che zona 8 marzo è utile vederlo. E lo presento come un film che piace molto ai giovani e alle giovani. Questo è quello che succede. Ed è un film su che cosa significa femminismo oggi, o comunque l'attivismo delle giovani che credono che i diritti, una volta conquistati, bisogna anche difenderli. Quindi vedo queste giovani nel film, le seguo, che sono le giovani di Non Una di Meno, che hanno veramente qualcosa da dire e rivendicano non solo per se stesse, ma per una società migliore. Come era nata l'idea? Semplicemente l'8 marzo del 17 ho letto sui giornali invece che festa della donna, che appunto mi sembrava sempre la solita cosa commerciale alla quale poi non aderivo più da anni, ho letto sciopero e questa cosa mi ha colpito e a Milano, dove abito ancora adesso, sono andata in piazza e ho visto veramente una folla di donne, poi questa sigla Non Una di Meno che non conoscevo. Quindi lì ho capito cos'era lo sciopero perché loro ne parlavano, ho sentito non solo slogan ma un piano contro la violenza di genere che loro stavano scrivendo, mi sono incuriosita, le ho seguite, sono andata in assemblea e ho dichiarato subito che le avrei seguite se me l'avessero consentito. Loro un po' dubbiose all'inizio, poi si sono rilassate e io le ho seguite per 3 anni e ho raccontato il loro progetto nel film, mettendomi però in campo io stessa, cioè io sono nel film, nel senso che parto da me come donna cinquantenne e mi confronto appunto con queste giovani, quindi il mio sapere con il loro sapere, quindi è un film dove c'è una postura, se vogliamo, anche femminista, cioè partire da se stessi, non voler parlare di, ma parlare con, l'idea è parlare con loro, insieme a loro. Due domande in una, in tutta Italia e poi ne hai seguita qualcuna in particolare rispetto alle altre? Io ho seguito il nodo, che si chiama così, l'assemblea Non Una di Meno di Milano, quindi io mi sono concentrata, sono andata alle assemblee, ai presidi, a tutte le loro attività, confrontandomi con loro perché anche io abito a Milano, quindi c'era questo uscire di casa di me donna cinquantenne con figli, matura e che con il lavoro, e andare magari alle assemblee di queste ventenni, che è veramente incredibile, una grande energia. E poi ovviamente attraverso loro andavo con loro, le ho seguite alle assemblee nazionali, alle manifestazioni nazionali che si sono svolte a Roma, quindi mi sono spostata, diciamo, al loro seguito più volte, confluendo appunto a Roma, dicevo, dal 2017 al 2020. Io racconto 3 anni e anche la pubblicazione del piano contro la violenza di genere che Non è di meno ha scritto, che è molto importante. Quali sono le loro rivendicazioni che trovi più interessanti, più condivisibili? Sicuramente il fatto che la violenza di genere è un fatto strutturale alla nostra società Che significa? Significa che non è solo in un ambito, quindi il femminicidio è la punta di un iceberg, in realtà la violenza vista come discriminazione è ancora molto diffusa in Italia, anche se si fa finta di non volerlo ammettere. E quindi questa loro analisi mi ha veramente molto convinto, cioè l'analisi di tutte le strutture di violenza della società che sono nel mondo del lavoro, perché ci sono delle discriminazioni nel mondo del lavoro, nella sanità per il discorso della legge dell'aborto, ma non solo, ci vorrebbe anche un'educazione alla sessualità, che per esempio questa forse perché l'Italia è un paese cattolico, non riesce ad arrivare alle scuole. Nel film io ho registrato non una ma più di una, però nel film c'è un incontro al liceo Manzoni con non una di meno che raccontava, era lì disponibile per le domande sulla sessualità e veramente era piena l'aula e i giovani domandavano informazioni che a noi sembrano semplici, ma chi gliele dà? Non sempre in famiglia si fanno queste discussioni per pudore o perché i genitori possono avere una loro formazione. Invece diciamo il diritto all'informazione anche sulla sessualità dovrebbe essere fatto anche a scuola, quindi mi ha convinto questo, ma la cosa che mi ha convinto di più assolutamente è, e sono io docente anche, insegno all'università, quindi insomma questa cosa la capisco, oltre che madre, è che per cambiare il mondo bisogna partire dalla formazione. E la formazione nostra, scolastica, in certi argomenti è molto arretrata, i libri italiani, e spero che in altri parti non sia così, sono arretrati anche per quanto riguarda le figure femminili presenti nella storia, che abbiamo scoperte tutti attraverso internet, ma non entrano nei libri, per cui rimane sempre questa sfasatura tra lo stereotipo di genere femminile e lo stereotipo di genere maschile, perché gli stereotipi poi non è che sono quelli sulla donna, ma anche sull'uomo. Per cui ecco, nel film c'è questa riflessione, questa attenzione molto importante alla formazione e quindi mi piacerebbe che questo film lo vedesse il ministro dell'istruzione, perché il problema è lì, partire da lì per cambiare il mondo. Questa è la cosa che mi ha colpito di più e loro fanno molto per la formazione. Hanno fatto una serie di lezioni che si chiamano fuori classe durante il Covid, si muovono nelle scuole, loro sono molto vicine, essendo giovani, diciamo anche alla loro pregressa formazione mancante e monca di una serie di cose che sono appunto anche questo, diciamo, una conoscenza del diritto alla cittadinanza delle donne con pari diritti, un diritto all'educazione sessuale e riproduttiva e poi un diritto a vedere nella storia delle figure con le quali riconoscersi, perché le donne esistono non solo dall'altro ieri, dagli anni 70, ma appunto nel film è celebrata la figura di Olympe de Gouges, siamo nel 1791, non esiste nei libri se non come figura forse così di approfondimento, invece è una figura importantissima. Lei nel 1791 scrive la prima dichiarazione della donne della cittadina, cioè i diritti non sono stati rivendicati solo negli anni 70, cosa straordinaria per noi che ci siano stati ovviamente negli anni 70, però è proprio perché a un certo punto non se ne poteva più, per fatto che la lotta delle donne per una parità di diritti non fosse considerata. Come lo descriveresti a Gender Revolution? È un film che parla della lotta delle donne in paesi che sembrano molto lontani da noi, ma in realtà sono molto più vicini. E sono varie maniere di lottare. Noi abbiamo cercato di raccontare gli strumenti, ma soprattutto quali sono i percorsi che si possono intraprendere quando si vuole lottare per l'uguaglianza di genere e per la liberazione delle donne. Come era nata l'idea? L'idea era quella di cercare di raccontare le donne, soprattutto in questi paesi del Medio Oriente, perché noi seguiamo tre donne diverse in Iraq, in Afghanistan e nel nord-est della Siria, di raccontarle in una maniera diversa, nel senso che i media mainstream spesso e volentieri quando parlano di donne in questi paesi le descrivono o come vittime e quindi bisognose di aiuto, in attesa appunto di un salvatore, oppure solamente con lunghe trecce Kalashnikov. Noi volevamo cercare di andare al di là di questa narrazione e cercare di ristabilire un attimo un po' di quella verità, dei progetti politici che comunque tutte queste donne, tutte queste compagne portano avanti da molto tempo. E quindi nasce appunto questo film. Che impressioni ne hai ricavato da questa esperienza, insomma, da questi incontri anche? È stata per me un'esperienza molto molto bella e sicuramente molto formativa, nel senso che anche proprio come siamo andate a raccontare queste storie, perché noi eravamo una troupe di sole donne, noi abbiamo girato questo film nel 2017, era ancora qualcosa di molto nuovo, soprattutto nelle zone di conflitto, e abbiamo vissuto con loro per parecchio tempo, in tutti i tre appunto diversi paesi, e per me è stata sicuramente un'esperienza umana e politica molto importante ed estremamente formativa, ma soprattutto mi ha anche dato una forza, no, di capire che ci sono donne che in tutto il mondo lottano e la lotta è trasversale, e quindi se ci sono donne in Afghanistan che lottano, anche noi dobbiamo fare la nostra parte, comunque, perché la liberazione della donna è ancora molto lontana, che sia, ovviamente ci sono problemi diversi, ci sono prospettive diverse, però comunque anche noi qua in Europa stiamo facendo molta fatica. Come nasce il progetto della rassegna? Nasce sostanzialmente dall'incontro di altre donne che hanno raccolto la proposta lanciata da Movie Day, che è questa piattaforma che si occupa della distribuzione in sala di film indipendenti, di mettere insieme voci di donne per provare a ripartire, far ripartire il cinema, perché insomma il cinema ha molto sofferto di tutte queste chiusure, e farlo insieme, quindi provando ad immaginare un coro di donne che cercano di portare un loro piccolo modello, ecco, quello a cui ognuna di noi in differenti momenti, in differenti luoghi, in differenti spazi ha costruito, cercando appunto di andare nei territori, andare nelle sale, cercare un dialogo attivo con le persone per provare a dialogare su questo futuro che ci aspetta, ecco, infatti per questo il sottotitolo Donne che cambiano il mondo. Dove stiamo andando? Verso quale futuro stiamo andando? Noi vorremmo dare un contributo, ecco, in questo senso. Secondo me è stata una bellissima idea quello di mettere appunto tre registe donne che parlano di storie di donne insieme, anche perché nel cinema, come anche in altri settori, ma soprattutto anche nel cinema, le donne registe sono molto poche e soprattutto non hanno quello spazio che viene riservato in generale ai maschi. Come avete deciso di articolare la rassegna in 6 città in circa 40 giorni? Allora, la rassegna, che è una cosa per me appunto straordinaria, perché il film in questo modo, il Caribbean Anno, ha una nuova primavera, perché è già uscito da un anno, e l'abbiamo articolata per partire adesso su 4-5 città. Ma l'idea in realtà è quella di continuare poi con il tour, perché noi abbiamo l'idea di costruire questo percorso intorno all'8 marzo. Per cui in ogni città che abbiamo già contattato vengono organizzate 3 serate. In ogni serata c'è uno dei 3 film del pacchetto, o I Am the Revolution, o Il Terribile Inganno, o Tutte a Casa, no? Che sono 3 film che raccontano la resistenza e l'esistenza anche delle donne, che sono non solo registe, autrici, ma anche protagoniste, no? Allora, le città attualmente sono Pisa, dove andremo al Teatro Nuovo, e abbiamo date il 15, il 22 febbraio e l'1 marzo, sono le date appunto dei 3 film, uno dopo l'altro. Il 15 c'è Il Terribile Inganno. Torino invece al Cinema Ambrosio, e lì col Il Terribile Inganno siamo il 16, e poi gli altri 2 film saranno il 23 febbraio e il 2 marzo. Poi lo Splendor di Bari, che invece fa un sacco di date, ne fa sia a febbraio, che sono il 28 febbraio, e poi molte a marzo, 7 marzo, 14 marzo, e anche 1, 8, 15, cioè veramente Bari, non mi ricordo tutte le date perché sono veramente tante e sono molto contenta, quindi 3 film si alterneranno in tutte queste date. E poi c'è Bologna, che fa tutto a marzo, apre con l'8 marzo, 15 e 22 marzo a Galliera. E poi siamo all'Anteo di Milano, anche lì l'8 marzo, il 10 e il 14, e ancora Genova al Nickelodeon il 10, il 17 e il 24 marzo. Ma tutte queste date si trovano andando sul sito di Movie Day, noi ovviamente stiamo facendo la promozione anche sui social, cioè è facile avere il calendario in rete cercando uno dei 3 film oppure la rassegna Resistenze, quindi si trova tutto il calendario che ho appena descritto, ma anche le date che ancora stanno per uscire. Rassegna Resistenze, Donne che cambiano il mondo, con 3 documentari, Tutte a casa, Il Terribile Inganno e I Am the Revolution, in 6 città dal 15 febbraio al 24 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento alle registe Cristina D'Eredita, Maria Arena e Benedetta Argentieri. A presto! Ciao, grazie, ciao a tutti, grazie. Grazie. Grazie, a presto. Buon 8 marzo e verso l'8 marzo. Con Alessandro De Simone di I Wonder Pictures per presentare il film Annette di Leo Carà, di nuovo al cinema da giovedì 3 febbraio 2022. Ben trovato! Oh, ciao Enrico, sento un piacere, lo sai. Lo racconti a chi ci ascolta? È un film che riesce al cinema a svolta delle 11 candidature avute ai César, gli Oscar francesi, candidature importantissime, tra cui miglior film, miglior regia per Leo Carà, miglior sceneggiatura sempre per Carà, e Ron Miller, ormai meglio noti come gli Sparks. Per chi non lo sapesse, parliamo di una band storica, un duo assolutamente geniale, e il film nasce proprio dall'incontro, anche un po' casuale, tra gli Sparks e Leo Carà. Carà in Holy Motors, uno dei suoi film precedenti, aveva utilizzato una canzone degli Sparks, e gli Sparks erano rimasti molto impressionati da questa cosa e contattarono poi Carà per un progetto che avevano in mente da tanti anni e che in realtà era completamente diverso. Si trattava di un fantasy su Ingmar Bergman intrappolato a Hollywood e incapace di fuggire. Da questo incontro poi però sono nate tutta una serie di conversazioni e da lì nacque l'idea di Annette. Che cos'è Annette? Annette è la storia di un stand-up comedian e una cantante di fama mondiale che si incontrano e si innamorano, si sposano e hanno una bambina. Non rivelo niente per chi non ha visto ancora il film, perché in realtà questa bambina sarà il fulcro della storia, che come accade nella maggior parte dei film di Leo Carà è sempre assolutamente al limite tra la realtà, il sogno e l'incredibile. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? Prima cosa, il fatto che sia un film di Leo Carà, che è sempre qualcosa di preziosissimo. Per chi non lo conoscesse, Carà è stato uno dei grandi, delle grandi rivelazioni del cinema francese degli anni Ottanta, insieme a Luc Besson e Jean-Jacques Benet, creò veramente una nuova nouvelle vague all'interno del cinema francese. Sui primi film, Boy Meets Girl, soprattutto L'Osso Sangue. Comunque ogni film di Carà è un evento, anche perché poi non è un regista particolarmente prolifico e il suo genio visivo è assolutamente incredibile ogni volta, e anche il suo modo di raccontare. In più abbiamo una coppia di attori davvero eccezionale in questo film, che sono Adam Driver e Marion Cotillard, che entrambi danno interpretazioni di altissimo livello. E poi un musical, che è un genere che in Italia non sempre riesce a trovare il suo giusto pubblico, ma è un musical diverso dal solito. Appunto la colonna sonora degli Sparks lo rende tale, e poi è un film pieno, stracolmo di invenzioni visive e narrative, e soprattutto è un film da vedere sul grande schermo, perché le immagini di Annette ti avvolgono, ti conquistano e entri veramente dentro il film quando lo vedi in sala. Che tipo di circuitazione ha avuto all'estero? È stata un po' convulsa. Negli Stati Uniti il film è andato direttamente su Prime ad agosto, mentre invece in Francia è uscito subito dopo la presentazione in concorso al Festival di Cannes, dove ricordiamo appunto il premio per la migliore regia. Prime ha avuto la distribuzione in una serie di paesi internazionali, in Italia è stato distribuito a novembre da iWonder Pictures, dopo aver fatto un passaggio in anteprima al Bifest di Bari a fine settembre. Com'era stata la prima risposta a novembre? Era stata buona in termini di come buono può essere il box office italiano in questi mesi. La media per sala era molto, molto promettente. Quindi il fatto di farvi uscire il film, peraltro pochi giorni prima delle candidature all'Oscar, non è improbabile che Annette possa avere delle nomination in alcune categorie anche maggiori, è sicuramente un buon viatico. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli sulle sale? Basta andare su iwonderpictures.com o it, a seconda di quello che si preferisce, e lì troverete tutti i dettagli delle sale, nonché sui canali social di iwonderpictures, sia su Facebook che su Instagram, trovate tutta la programmazione delle sale di Annette in tutta Italia. Il film Annette di Leo Carà, di nuovo al cinema da giovedì 3 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro De Simone di iWonder Pictures che lo distribuisce. A presto! Grazie a tutti e mi raccomando, andate al cinema. Domiziana De Fulvio sul suo documentario Sisterhood a Roma al Nuovo Cinema Aquila dall'11 al 16 febbraio 2022. Ben trovata. Grazie. Ciao a tutte e a tutti. Ciao Federico.